il biglietto ce l'ho. Pluritimbrato, arigato, oh oh oh oh. Me ne sono andato, le tue mani a cucchiare sulle mie. Tra fossette e fesserie, i tuoi piedi freddi sempre se la vi. Mi rubi le coperte che sta di. Sono puttane vero, tu le chiami escort. E quelle calze nere sono un po' d'arresto. E non mi regolo perché ci sono al sesto. Quando invitato via sei un po' troppo molesto. Ho comprato una coupé, ma non fa per me se non ti sia di te. Ho fatto il vento dall'hotel e mi porta sempre fino là da te. Posso, posso, posso, posso, posso stringerti la mano e dirti cose che non posso, posso, posso, posso, posso dire in italiano, ma in romano sì che posso, posso, posso, posso, posso, posso, posso, posso dirti fidi di me. Leggerti la mano, ma mi dici facci piano. So che dirti una bugia a volte sarebbe un po' più facile. So leggerti nel fondo di un caffè che bevi il deca. Vorrei essere una sedia ad aspettare che ti sieda. Potrei dirti che ci sta un colpo di fulmine in futuro, che saranno rose e fiori, ma è un colpo della strega. Regalarti belle storie rose a chiaro di luna. Per corta la fortuna e vedo una luna nera. Sul tuo palmo la tua linea dell'amore tratteggiata fino a un dito di sake. Con il medio riccio il baffo, sputo fumo in faccia con...